Ascolti Italy from Sardinia. Se ne è scappato, meno male. Sì, sì, è vero. Io una volta ho trovato al portatore una busta che c'era un nome di incassi dentro. C'erano gli incassi fatti a mazzette, eccetera, eccetera. E li ho portati ai carabinieri. Portati ai carabinieri, poi da lì è subito andato a fare la denuncia il proprietario e se li ha trovati già pronti. È stato fortunato, E intanto erano tutti sciolti, quindi sono stati 10 euro, capito, ma erano i gruppi di nato. Di cosa disabio c'era una provenienza di qualche rapina o qualche cosa, no, non mi fido. Può essere anche una cosa del genere. No, erano gli incassi e il cambio di denaro che doveva dare a dei negozi che questo ha, e quindi purtroppo dice che li ha appoggiati alla macchina per prendere una cosa e poi si è dimenticati che come lui è partito sono caduti e io li ho trovati sul marciapiede, erano un bel buco di denaro. Vabbè, io ho fatto il mio atto buono, li ha ringraziato e basta, non me l'ha tomato 5 litri. Avevi diritto al 10%. Io già lo so, me l'hanno detto anche i carabinieri, ma non me ne ha fatti nulla, doveva partire da lui. Ecco, a saperlo, puoi iniziare interrotti tutti. C'erano questi da 5, questi da 10, capito? C'erano i mazzetti per il cambio nel negozio. Poi è anche vero che una volta li ho persi io e mi hanno segnalato con le luci e mi hanno detto guardi che le sono caduti dei soldi e cose, è stato onesto, va. Troppo onesto, non bisogna essere troppo onesti. Io per dire, a me è capitato più di una volta che mi hanno ritornato il resto sbagliato, per dire gli davo 5 euro, mi tornavo il resto di 10, anche di 20, tante volte. Li ho sempre restituiti. Io sì, quasi sempre, allora certe volte no, anche perché me ne ero accorto dopo, capito? Dopo che sono tornato a casa mi sono trovato soldi in più e ho capito che era il resto. Vabbè, ma stai tranquillo con te stesso quando fai questi atti qua, per me io sono così. Io no, io mi sento in colpa quando restituisco la roba. Però una volta è anche vero che siamo andati al circo con Marcolino, mia moglie non ci voleva venire e siamo andati insieme a lui. E praticamente ci hanno pagato 2 biglietti, in più hanno pagato a noi. Cioè praticamente gli ho dato 20 e mi ha tratto verso i 50. Però io nel momento lì per me non ci ho fatto caso, ho preso e me l'ho messo al portafoglio. Solo che avevo solo quelli di soldi, poi mi sono ritrovato i soldi di evitati. Ma è tu si abita a lui, ce l'ha mai fatta. Gaba gaba. Ok. Vedi tu da quella del rifornitore di via Pascoli. Una volta ho messo la benzina, la pago con 20, devo pagare 15 euro, mi ho dato 5 euro. Mi ha trovato il resto di 50. E ho detto guarda io gli ho dato 20. No, no, mi ha dato 50. Ma sta scherzando, io gli ho dato 20 perché 50 non ce li avevo. Almeno li avessi avuti, gli ho dato 20 euro, signor. No, no, no. Lei mi ha dato 50, ecco, qua ci sono le 50 euro, se ho detto ma ne ha altri 20 da 50. Sì, ma me li ha dati lei, questi qui sono sicura. Sono sicura che il signor la faccia come vuole. Io glielo sto dicendo, sono onesto, pure no, no, ma io roba che non è mia non ne ha, non ne ha avuto. Peggio per lì, meglio per te. Io ho detto glielo, ho assistito tanto e poi tanto e allora. Alla fine ho lasciato il freccio, se no la devo prendere a pugni. Sì, la dovevi prendere a cazzotti. Ci prende il resto. Tante volte qui. Per fare del bene viene anche trattato male, allora vabbè, ci ho lasciato fare al lì. Io una volta avevo trovato mi pare, in una busta tipo per lettere, una cosa del genere. Io trovo di assassare. Devo essere qualche stipendietto di qualche barista, di qualcosa del genere. Ma nessuno, cioè, come facevo a sapere di chi erano? Allora mi sono tenuto. Come regalino ti sei fatto? Vabbè. Invece io da poco ho trovato una carta di credito e avvolti c'erano 75 euro, avvolti alla carta. E ho guardato il nome della carta, ho chiesto chi era questa persona, qui glielo sappiamo, se si conoscono tutti. Ecco, guarda che la madre abita lì, sono andato da signora così e così. Fatto sta che prendo la roba e gliela porto a casa, alla madre. La madre mi ha detto, oh, ti ringrazio, guarda, te sono a telefono a mia figlia, le ha telefonato a mia sorella, ma sta cosa di avervi preso. Si ricorda solo che lei aveva questa roba qua in tasca e anche le chiavi della macchina. Come è andata a prendere le chiavi per chiudere la macchina, le sono cadute, capito? E io li ho trovati tutti quanti attorcigliati a questo banco, ma ti diciamo. Ma sono riuscito a rintracciarla, sono stato contento, non hanno finito di ringraziarmi, cazzo, grazie, vabbè, non c'è problema. È andata bene, dai. Vabbè Marco, lo sai che cosa ho pensato? Magari qualche poveraccio che deve pagare qualche cosa e magari se non c'ha questi soldi non riesce a pagarla perché non ce li ha. Invece a me non mi fanno diventare più ricco, 75-80 euro quanto era. Non mi fanno diventare né più povero né più ricco, quindi il ritorno è buono. A me mi fanno più ricco invece. Marco, la ricchezza è quella interiore di una persona, non sono i soldi. La ricchezza interiore, ricordi sempre, che è quella che c'è dentro di noi. Nel modo in cui ci comportiamo verso il prossimo, verso gli altri, quella è la vera ricchezza, i sentimenti, eccetera, eccetera. Sì, è vero, però per un disoccupato la ricchezza interiore non basta, ci vuole anche quella esteriore. Sì, ma non dagli altri, Marconi. Io, permettimi, se ti do degli insegnamenti, ma perlomeno io la penso così. Che non bisogna farsi ricchi dagli altri, se uno si fa ricco onestamente, tanto di cappello, ma che si faccia ricco dalle cose degli altri, che magari poi lo fanno finire in mezzo ai pasticci perché non hai soldi per pagare quello che deve pagare, magari ce l'ha messi da parte, sai come fanno le persone che prendono lo stipendio, tanto li lascio per questo, tanto per questo, tanto per l'altro, se li ricavi chi si abbassi non ha più. Quello sì, certo, se sai il nome, se c'ho il nome magari vi porto, se vedo un'anziana che ha bisogno, no? Se invece vedo che ne so, che non c'è il nome, come faccio anche a sapere il nome? Chiunque potrebbe venire e chiedere, come dire, e dire che sono suoi, capito? Cappagà. Come, Giuse, lì? No, ho detto K, no, quello lì no, perché anche io la cavalcata, per dire, questa l'ho trovato 10 euro, le ho raccolte e basta tutto lì. Ma se dicessi di chi sono questi 10 euro, tutti direbbero sono le mie. Però se tu vedi, per dire, che a uno gli cadono dei soldi da tasca o che ci sia un nome per identificare che sia il proprietario, ha il dovere di restituirli, perché se no in coscienza io mi sentirei un ladro. Non è così. Eccomi, no, stavo caricando un cellulare, sì, ho sentito. No, ma io coscienza non ne ho più. Ah, Marco Lì. Sono un uomo senza coscienza, senza ideali e senza donna. Senza donna. Cerca però di riempire un po' questa tua mente, questo qualche modo di pensare devi avere, i tuoi ideali devi avere, la donna la devi avere. Vabbè, io scherzo un po', l'altro l'ha dato ancora in più, ma insomma. La loro ce l'ha? No, anzi no, quella no. E vabbè, ma morto un papà si riguarda un altro. Lo so, anche quello è vero. Quindi, secondo me tu ti lasci un po' andare, Marcoli, ti lasci un po' andare, invece bisogna lottare per avere, lottare. Lotta dura senza paura, questo è il mio motto. Sì, in realtà è così. Io sono stato abituato a non lottare mai e ad avere il corso più facilmente, capito? K-gappa. Ti hanno sempre viziato, va? Sì, un po' sì. Cioè, abbastanza, non un po'. Ma sei figlio unico? Certamente. Ecco perché. Che figlio unico di solito viene viziato di più. Solitamente è così, a parte che li puoi dare di più, perché se hai un figlio da solo, quello che dovresti distribuire fra due o tre figli, se ne distribuisci solo con uno, no? Eia, sì, infatti è vero. Ah, io ascoltoni, entrate, invece di ascoltare, prendete parte alla discussione. È tutta così, Marco. Cosa? Che sei abituato così anche adesso, aspetti che ti viene subito fare tua madre. No, adesso è più nera la situazione, capito? Si passa il tempo, non più grande, i regalini non si fanno più. Ah, così è. Zappardinia va. Sì, la logica è questa. Solo che mamma mia, anche la situazione non è ovvia. A me mamma mi diceva sempre una cosa: figlio mio, ricordati che i genitori non vivono in eterno, zappatene, fatti una strada e una retta via e così andare avanti, perché i genitori quando ci sono ti accontentano, quando non ci sono più però non ti possono più accontentare. Ma lo dice sempre, lo dice sempre mamma, quando c'ero io, va bene, so che anche il lavoro non glielo trovi così adesso, in due minuti, e siamo diventati quasi strano. Marco, ma non bisogna cullarsi la luce, secondo me bisogna lottare, presentare il curriculum, cercare, fare, se no dall'altro non ti piove. Cappa, lo so, io a chiedermi ero anche stufato perché se ignorano, tanto dicono, vedremo, ma non c'è posto, è difficile, allora è difficile. Lo so, difficile, ma tutti hanno il diritto di lavorare. Per la legge italiana, per la Costituzione, sì, tutti hanno il diritto al lavoro, ma non è così. Sì, certamente è così. E dovrebbero fare qualche legge, come in Germania, che quando uno non trova lavoro, sì, quando lo trova, ti danno lo stipendio regolare, che possa vivere tranquillamente, uno stipendio regolare. Se ti cercano lavoro loro, ma se loro ti trovano il lavoro e tu lo rifiuti, non ti aiutano più. Ah, ecco, non lo puoi rifiutare quando te lo danno, così anche si può fare. Così almeno ti obbligano, perché sennò ti tolgono i soldi. Esatto, sì. Ti obbligano a non essere mandrone, a non cullarti sugli allori, a... cosa ti posso dire? A volare. Anche se so che adesso anche in Germania la cosa è critica. Hai detto in Germania? Critica anche lì adesso. La crisi premia un po' tutti. Oh, in Austria, quei posti lì, ci lavora tranquillo. In Svizzera. Sì, dove sei tu, Vittorio? In Svizzera un operaio come lo pagano 10.000 euro al mese. Cacchio 10.000 euro? E allora mi conviene andare subito, tutta la famiglia. Infatti hai quegli accusati, sì. Sono che tutti si stanno. stanno buttando in Svizzera. Praticamente non c'è più posto adesso, fra poco. Infatti volevo chiudere le porte. E capito, Marco? La Svizzera non è che voglia tutta l'Europa a casa sua. E non è come qua che ci prendiamo cani e pulci. Qua è tutti insieme appassionatamente. E tanto i cinesi danno pure ad un travaglio agli italiani, perché fanno prezzi molto più bassi e coso, e stanno facendo fallire i negozi italiani. Purtroppo i cinesi stanno diventando, no, non stanno diventando, sono già una superpotenza economica e stanno facendo tutti i campi, costruiscono roba in tutti i campi, compreso anche ricerche, trasmittenti amatoriali, tutto con la banda lì, si stanno conquistando piano piano anche quello. Che ti devo dire? Forse deve andare così, ma è normale progresso, non so. Ma come stai dicendo, quegli apparati Baufen? Baufen, Baufen, che ne hanno nome di marche. Vanno bene, costano pochissimo, perché con 35 euro hai un bibanda V e U. Lo so. Lo so. Sono, diciamo, anche dei belci a Parigi. Ciao Martina. Sono piccolini. Sì, sono piccoli. Non piccolissimi, c'è anche quello piccolissimo, l'UV3R, che è piccolino piccolino, proprio tascabile. Marco sì. Come? Aspetta, Marco lì. Non ho capito, aspetta che faccio la fine. Ti ho chiamato, ho detto Marco lì. Ah, dimmi. E quindi? Sì, li ho visti quegli apparecchi su internet. Sono carini. Pochi watt, ma sono bellini, sono piccolini. Ecco. Avanti. Se vuoi entrare siamo sulla frequenza 27075, canale 10, Gambio. Oh, stai uscendo, se non sei qua, stai uscendo come fossi di Splatter. Il vittore la base, non vorrei avere. Ma tu non vuoi di quella stazione base, che sembra una testa. Anche, per me è Galaxy nuovo. Costa 290 dalla, solo che ti fanno pagare decine di euro per la spedizione. Fido dall'America, io lo vedo dall'Italia, quindi se c'è qualcosa che non va bene, io lo spedisco. Ma lo porta per adesso, e se lo portano il prezzo quasi se lo fanno raddoppiare. Lo so. Io parlo di quello base lì, mi sembra strano 200, costa più di 600. Allora, io ho visto su eBay con l'apparato lì c'era scritto top dollari, in euro era tipo 290 euro, cioè ti farò pagare tipo 60 euro di spedizione dalla messa, capito come fa? Sto dicendo male, non si capisce che tipo di anomalia sia. Guarda adesso che sto ammazzando, tu scendo meglio chi sei? altro po'. Come sto uscendo già? Adesso bene, Fabio. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. No, stavo provando un apparecchio, dovevo regolare un attimino il mitigain, quindi stavo provando. Però adesso stai andando bene. Da combattimento? Magari potresti alzare un po' di più, prova a vedere. Ho sollevato un puntino, come ti sembra? No, Fabri, lascialo com'era perché così va fuori. Allora, così va bene? K. Come in genere la mia modulazione col K? Ehi. Va bene, allora va bene. Va bene, allora facciamo delle prove. E volevo vedere un attimino. Anche mi piaceva essere. Aspetta. Vabbè, poi ricontrollo quello. Vabbè, io vi saluto e vi lascio proseguire, che stavo facendo un travagliuccio. Ciao, buona continuazione, Fabri. E ogni tanto vieni qua. Io ti ascolto anche là, ma ogni tanto vieni anche qua. Quando oggi ero fuori perché era la prima comunione del bambino, sono rientrato e stavo provando un apparecchio che ho lasciato acceso tutto il giorno, che avevo riallineato e volevo vedere un po'. E quindi è per quello. Va bene, sotto anche l'altro amico che ho sentito, che è Marco, però forse siamo sentiti già qualche altra volta. Una volta, per la verità. Sì, già ricordo, dai. Vi lascio proseguire, a dopo magari. Ciao Fabio, ci sentiamo. Avanti, Marco. Ok, eccoci qua, va bene. Io mi stavo guardando un po' di TV, ma non c'è mordente oggi. Non ti piace di Max? Sì, lo guardo meno già. Qua c'è Rouse, ma sono puntate già viste, perché la serie è finita e sono vecchie puntate queste qua. Non ne fanno più nove, purtroppo. Cavolo. E ne fanno. Ci sono invece episodi nuovi, c'è quello dei delinquenti, cose prostituzione, eccetera, eccetera, che è nuovo. Dei delinquenti? Cioè, quale serie è? Una nuova serie che non mi ricordo come si chiama. Però è roba di gente che sta da dentro, coso, prostituzione, tutte queste cose ci sono. So che sei riuscita, boh. Vabbè, io di solito guardo Italia 1, quello qua serie, adesso non stanno dando serie, c'è qualche cosa di squadro, è una porcheria, non è roba che mi piaccia. Bravo, ma non c'è nessuno, avanti se c'è qualcuno, la legge di Isa. Grey's Anatomy, sempre di medicina parla. Ci chiama questo programma? La serie Grey's Anatomy. Sì, ce ne sono tanti nuovi adesso. Ce ne sono tanti, quello del cibo. Come è fatto il cibo? Ah, ma quelli sono programmi così? No, io sto dicendo telefilm proprio, serie di telefilm. Allora, non le guardo io. Sono al contrario, guardo più quelle serie. Ma fate per seguire le puntate. Perché poi se ne perdi uno o due, perdi il filo, capito? Ma poi vabbè, ma io non ho la pazienza di stare a seguire le puntate una a una, boh. Diciamo che prima che lo facevo, ma adesso non ho più pazienza. Avanti se c'è qualcuno su 10 che vuole entrare. Ma c'è quello che mi ha stancato con la camminata. Ti ha stancato? Come mai? Non ha stancato me? Non lo so, io sono anche in piedi stanotte perché sono stato male, ho tutti dolori, mi sono venuti crampi, qua, da morire. Allora per quello. Magari ha accumulato stanchezza e via. Io invece stamattina mi sono svegliato con un mal di testa, perché praticamente c'era una zanzara stanotte in camera, no? Io ho preso una piastrina di zanzara e l'ho messo in forma e vento. Ecco, di solito nella mia camera basta mezza, anche per evitare di respirarne troppo, no? Mezza. Invece ieri notte che l'ho qua suonato, non mettevo un'intera. Stavo pensando che non fosse quella che mi aveva un po' suonato e mi ha dato il mal di testa. Perché qua dice di arieggiare, cioè di usarle di arieggiare, solo che poi si arieggi e finito lo scopo, non c'è più l'effetto che si deve zanzare, no? Beh, e adesso stanno prendendo degli stick, delle cose particolari per ucciderle. Altro che citronella. Ieri sera abbiamo messo una candela di citronella per allontanarle, invece ce l'avevo sempre vicino alla testa. E cercava di fuggire, invece poi una volta messa la piastrina è morta, non l'ho sentita. Attento, canale 10, canale 10, c'è l'ascolto? Io Ciccio, non c'è più nessuno, Ciccio. Ah, una cosa, ma tu la frequenza l'hai seguita sempre? Poi hai avuto anche tu dei vuoti, degli anni in cui non entravi. Sono 10 anni che non entravo, io avevo sempre l'apparato, di certo accendevo, però sinceramente sentiva solo il QRM. Perché avrei voluto sapere da qualcuno qual è stato il peggior periodo per la 27, proprio quando non entrava nessuno. Cioè mi interessa sapere quando è stato. Io potrei ipotizzare anni 90, periodo di rottura, fine anni 90 e metà anni 2000, tipo 2005, vuoto massimo. Potevi usarlo come volevi tu il baracchino, era tutto vuoto. Potevi usarlo come radio taxi, come canale personale, di tutto. Copiato già, o ti sei addormentato? Marco, che sai cosa ti dico? Buonanotte, io mi gioco di un mese, se no non riesco a salutarti. Dai. Ci sentiamo, tante cose belle e vi raccomando, piace a tutto e poi ci sentiamo alla grande. Infatti non rispondevi, ho detto, deve essere Lumiglio. Va bene, già. Buonanotte, ci sentiamo in migliori condizioni, da. Ciao, ciao. Ciao, ciao, buonanotte. Si chiama? Ascolto, sempre Fabrizio. Sempre Fabrizio, non è che hai l'FM per caso? Allora, ce l'ho l'FM, però purtroppo esco bassissimo di modulazione. Ma, vabbè, a me mi interessa se mi dici se sto andando bene io. Sì, passiamo, dai. Amplificato molto. Amplificato. Sì. K. Ehi, io passo in AM. Va bene. Buonanotte.